Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Qualche tempo fa mi ha scritto un ascoltatore un po' arrabbiato perché abbiamo parlato di impianti a biomassa, ma secondo lui non abbiamo dato alcune informazioni sulla regolamentazione delle centrali a biomassa, quelle cioè che bruciano materiale organico come scarti di segherie o colture energetiche dedicate o per produrre calore o per produrre elettricità, oppure entrambi. Allora, noi non ci lasciamo scappare la possibilità di far contento il nostro ascoltatore insoddisfatto. Fatto, devo però chiedere l'aiuto di Marino Berton, presidente di AIEL, l'Associazione Italiana Energie Agroforestali. Buonasera Berton. Buonasera Melis, buonasera a tutti i suoi ascoltatori. Allora, facciamo contento il nostro ascoltatore critico. In realtà lui era più preoccupato di aspetti legati alle emissioni, al trasporto della biomassa, però noi partiamo da quello che diciamo è il quadro normativo di riferimento. Certo. Se uno vuole mettere in piedi una centrale a biomassa, da piccola, media, grande, che tipo di procedure deve soddisfare? Allora, intanto dobbiamo distinguere un po' di caratteristiche, di criteri, di segmenti. Se ragioniamo per impianti alimentati a biomasse legnose per la produzione di energia elettrica o cogenerazione, allora qui in questo caso ci sono alcune soglie molto precise. Sì. Fino a 200 kW è necessaria semplicemente una via, oltre i 200 kW si va già in autorizzazione unica, quindi in conferenza di servizi, e quindi in questo caso scatta una procedura un po' più complessa. Ecco, però recentemente è venuta fuori una regola per cui, come dire, la DIA dovrebbe essere applicabile fino a un megawatt di produzione elettrica, però voi non ne siete molto convinti. No, in realtà è proprio una vittoria di Pirro, nel senso che quando anche lei ha presentato per il suo impianto di 700-800 kW di potenza elettrica l'autorizzazione, la richiesta della DIA in comune, lei a quel punto non ha proprio risolto un bel niente, perché automaticamente lei dovrà prendere le sue carte, le sue documentazioni ed andare dai vigili del fuoco, ed andare dalla ASL o dall'USL, ed andare dalla soprintendenza se siamo in un contesto particolare, e andare dalla provincia, e andare dall'Enel. Quindi andare... praticamente lei sta dicendo si deve fare tutto il giro di interlocutori che all'interno del processo di autorizzazione unica farebbero gli addetti a questo lavoro, quindi tanto vale che lo facciano loro e esatto, rassegnarsi all'autorizzazione esatto. unica. Esatto, lei ha detto il giusto, quindi nell'ambito della conferenza di servizi ci sono tutti gli attori fondamentali, sono chiamati da un soggetto unico e tutti sono chiamati a esprimere la propria opinione. Una volta completata con il parere, quel parere è vincolante per tutti gli altri soggetti, gli enti pubblici, gli organismi che sono chiamati attorno a quel tavolo, e quindi la procedura si chiude. L'altro aspetto che riguarda la termica, perché anche questo è un elemento, allora se noi abbiamo semplicemente un impianto, una caldaia di casa, di condominio, è lì cosa dobbiamo fare? Diciamo così che fino a una certa soglia non dobbiamo fare niente, una semplice comunicazione al comune, ma a un certo punto, quando l'impianto per esempio è superiore di 116 kW, la potenza termica in questo caso, quindi kilowatt termici. Stiamo parlando di caldaie fondamentalmente esatto, a questo punto, prima parlavamo a biomassa. Di kilowatt elettrici, in questo caso invece dobbiamo denunciare l'impianto all'ISPSEL, ma quando l'impianto supera anche i 116 kW ci vuole il certificato di prevenzione incendi. Ah, d'accordo. E quindi dobbiamo fare un'altra procedura con i vigili del fuoco. Ecco, il tema che preoccupava invece il nostro ascoltatore erano le emissioni. Secondo lui di fatto non erano regolamentate, ma è possibile? No, le emissioni sono regolamentatissime, sono distinte in polveri totali, carbonio organico totale, monossido di carbonio, ossidi di azoto, ossidi di zolfo. Ma guardando l'elemento che è più evidente, che è quello delle polveri totali, ecco, diciamo così, possiamo dividere queste categorie. Per gli impianti da 35 a 150 kW di potenza termica, limite la soglia di 200 mg per normal metro cubo. Fra i 150 kW e 3 MW di potenza, la soglia si abbassa a 100 mg per normal metro cubo di polveri totali. Oltre i 3 MW di potenza la soglia si abbassa a 30 mg per normal metro cubo e ci resta per gli impianti anche più grandi fino a 20 MW. Ecco, secondo lei sono, come dire, dei limiti ragionevoli, adeguati? Allora, io penso questo, che le tecnologie che sono state raggiunte oggi nella capacità di, come dire, nelle misure secondarie, nella pulizia dei fumi, sono arrivate a dei traguardi così buoni che potremmo tranquillamente dire che anche le soglie di 200, di 100 mg normale metro cubo possono essere tranquillamente abbassate. Insomma, è anche un modo per favorire in fondo chi lavora bene, visto che oggi è possibile farlo. Ecco, un altro tema particolarmente delicato per quanto riguarda le biomasse è, come dire, il raggio di approvvigionamento, perché le biomasse hanno comunque un contenuto energetico limitato e se li si va a prendere troppo lontano, insomma, c'è il rischio che si consumi tanta energia per portarle sul posto, anche più di quella che si produce. È un problema realistico data la regolamentazione attuale? Possiamo dire così, che dobbiamo privilegiare anche in questi casi la filiera corta. Naturalmente i problemi più difficili avvengono quando invece ci sono impianti, magari grandi impianti, realizzati vicino ai porti che importano materiali addirittura oltreoceano. In questo caso la sostenibilità energetica, possiamo dire, va a farsi friggere, così, no? E quindi, va a farsi bruciare in questo caso. Va bene, grazie Berton. Prego, buona serata. Mister Kilowatt si chiude qui e anche la settimana, l'appuntamento quindi è per lunedì, parleremo di alcuni strumenti tecnici gestiti dal GSE indispensabili per far fiorire il mercato delle rinnovabili. Buona serata.